Letture di Radio 24. In Italia, chi si lamenta per i problemi causati dai migranti viene accusato di avere paura del diverso. Ma la paura non è una colpa, scrive Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. Oggi molti italiani hanno paura delle migrazioni, non perché siano ostili ai migranti, ma perché vedono che l'emergenza è gestita male e soprattutto non ne vedono la fine. Continua Cazzullo. L'impressione è che il governo e gli enti locali stentino a organizzare sia l'accoglienza sia i rimpatri e soprattutto non riescano a disegnare un orizzonte che dia ai cittadini quella sicurezza anche psicologica senza cui l'integrazione resta utopia. Il tentativo di coinvolgere l'Europa sta dando i primi risultati, ma gli italiani sanno che le guerre civili nel Nord Africa e Medio Oriente non sono affatto finite, che per stabilizzare l'area serviranno anni, se non decenni, e non intravedono ancora né le regole né le azioni che consentano di salvare i profughi, sottraendoli ai trafficanti di uomini, e di selezionare all'origine i migranti economici, distinguendo le figure professionali di cui l'Italia ha bisogno dalla massa che andrebbe fermata o rimandata indietro. I migranti non arrivano in un paese prospero, coeso, sereno. Si affacciano in un'Italia che vive un vero e proprio dopoguerra. La crisi ha lacerato in modo devastante il tessuto industriale e sociale, soprattutto al nord, soprattutto in provincia. Le reazioni emotive di fronte ai migranti che non si sono ancora neppure visti, come nel paese rosso di Badia Prataglia, sull'Appennino toscano, e gli scontri tra i parroci che li accolgono e i sindaci che li respingono, come a Bondeno in riva al Po, non sono conseguenze del razzismo, ma dell'insicurezza, che cresce proprio perché nella discussione pubblica non viene considerata, bensì liquidata con un'alzata di spalle o uno sguardo di commiserazione. Sui media tende a prevalere una visione irenica e spensierata dell'immigrazione, tipica di un'elite per cui gli stranieri sono colf a basso costo e chef di ristoranti etnici. Tanto i figli vanno alla scuola internazionale e i nonni nella clinica privata. L'immigrazione può rivelarsi un sollievo per il sistema produttivo, ma comporta un prezzo, tutto a carico delle classi popolari, chiamate a combattere ogni giorno una guerra tra poveri per il posto all'asilo, il letto in ospedale, la lista d'attesa al pronto soccorso, eppure la casa e il lavoro. Certo, alle società esangui e anziane d'Europa servono le energie formidabili che salgono dalle sponde meridionali e orientali del Mediterraneo. Ma non è forse cinica la logica di rimpiazzare con i nuovi venuti i bambini che gli italiani non fanno più, anziché sostenere la maternità o almeno mettere in condizione le donne di scegliere liberamente? Anche sull'apporto dei migranti all'economia è nata una retorica, ridimensionata sul Financial Times da Martin Wolf, editorialista britannico orgogliosamente figlio di profughi. Per coprire i buchi del welfare e della previdenza, l'Europa dovrebbe accogliere in pochi anni decine di milioni di stranieri, che non sbarcano nelle vaste praterie deserte d'America, ma in paesi come il nostro, montuosi e densamente antropizzati, cioè popolati da secoli non solo dall'uomo e dalle sue opere, ma da memorie e culture, retti su equilibri precari da ricostruire ogni volta. Così diventano simboli anche l'altalena contesa nel giardino di Padova, chiuso tra il campo profughi e l'asilo, o la rivolta di Gorizia in difesa del parco che custodisce i segni drammatici della sua storia, trasformato in bivacco. C'è da essere orgogliosi del modo in cui molti italiani stanno reagendo. Volontari laici e cattolici fanno un grande lavoro, spesso sopperendo alle lacune della pubblica amministrazione. E gli uomini in uniforme continuano a salvare vite, dovere giuridico e morale che in nessun caso può mai venire meno. Ma lo Stato, insieme con gli altri paesi europei, deve fare molto altro. Alleggerire il peso che grava sulle nostre frontiere, organizzando il viaggio dei profughi e il respingimento dei clandestini, e far funzionare la macchina dell'integrazione, legando i diritti ai doveri, che comprendono la conoscenza e il rispetto dei nostri valori, a cominciare dall'uguaglianza tra uomo e donna. Forse Don Abbondio aveva torto. Il coraggio uno se lo può dare, a patto di rispettare la paura ed eliminarne le ragioni. E quello che avete ascoltato era l'editoriale di Aldo Cazzullo, Immigrazione, la paura della gente non è una colpa, dal Corriere della Sera del 15 ottobre. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Letture di Radio 24. In Italia sono quasi 40.000 i bambini sottratti alle famiglie dai tribunali dei minori. Una cifra impressionante, 5 volte superiore a quella di paesi come la Germania e la Francia, che hanno un numero di abitanti molto più elevato dell'Italia. La maggior parte di questi minori finisce nelle case d'affido o nelle comunità protette con un costo giornaliero che a volte arriva a superare i 400 euro, per un business complessivo da 1-2 miliardi di euro l'anno, il tutto gestito da giudici non propriamente disinteressati. Secondo i dati forniti dall'associazione Finalmente Liberi, il 20% dei magistrati minorili italiani avrebbe qualche interesse, anche economico, a fare in modo che i bambini siano collocati nei centri d'affido, scrive Maurizio Tortorella in un articolo pubblicato su Panorama. Uno scandalo sommerso, perché è tollerato dagli stessi tribunali dove avviene, scrive Tortorella, che poi continua. Lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, che pure ha consapevolmente emanato una serie di circolari per evitarlo, fa finta di non vedere. E soprattutto non fa nulla per reprimerlo. Ed è anche vergognoso lo scandalo, perché coinvolge la vita di bambini indifesi e si verifica in un settore con un giro d'affari miliardario. Lo scandalo nasce infatti nei 29 tribunali per i minorenni e nelle corti d'appello minorili, dove operano 1.082 magistrati onorari che affiancano i magistrati di carriera. La legge, una norma del 1934 riformata nel 1956, prevede possano diventare giudici minorili onorari solo cittadini benemeriti, appartenenti ad alcune categorie professionali, per esempio esperti di psichiatria, psicologia, pedagogia. A nominarli è il Ministero della Giustizia, su indicazione dei tribunali. Il loro lavoro viene retribuito dallo Stato in base all'attività che svolgono, prevalentemente camere di consiglio e udienze camerali. Al contrario di quando dichiara l'aggettivo onorario, però, ognuno di questi 1.000 giudici ha esattamente lo stesso peso di quello dei magistrati di carriera. Ed è un peso elevato, che incide profondamente sulle decisioni dei tribunali per i minorenni, perché i collegi giudicanti sono composti da 2 giudici togati e 2 onorari, mentre i collegi delle corti d'appello sono formati da 3 togati e 2 onorari. Sui giudici onorari ha lungamente indagato Finalmente Liberi Onlus, un'organizzazione che si batte per la tutela dei minori, troppo spesso sottratti alle famiglie d'origine con eccessiva facilità, facendo una scoperta preoccupante. Abbiamo individuato 156 giudici onorari nei tribunali, più 55 nelle corti d'appello, che operano in totale e palese conflitto di interessi, dice Cristina Franceschini, avvocato e presidente di Finalmente Liberi. Il conflitto di interessi è grave e censurabile, perché questi 211 giudici, che ogni giorno decidono sull'affidamento di bambini a una casa famiglia o a un centro per la protezione dei minori, hanno contatti professionali con quelle stesse strutture. Prestano loro una qualche consulenza, in alcuni casi hanno contribuito a fondarle, oppure ne sono addirittura soci, fanno parte dei consigli d'amministrazione. Sono insomma giudici di casa, che inevitabilmente contribuiscono con le loro sentenze e ordinanze a fornire la triste materia prima infantile che serve a far funzionare i centri d'affido che hanno creato e per i quali lavorano. Ed è proprio qui che lo scandalo diventa anche vergogna, perché se sono corretti i calcoli di Finalmente Liberi, il 20% dei magistrati minorili italiani ha un qualche interesse, anche economico, a che i bambini finiscano in un centro d'affido. Un centro che per quei bambini, dagli enti locali, incassa una retta giornaliera a volte elevata. L'organizzazione ha individuato casi dove la tariffa supera i 400 euro al giorno. Si tratta di un colossale business, perché in Italia i minori allontanati dalle famiglie sono tanti e purtroppo gestiti senza particolare trasparenza. Nel 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali condusse il primo e unico studio approfondito sulla questione, rivelando che al 31 dicembre di quell'anno i bambini e i ragazzi sottratti alle famiglie e affidati erano 39.698. Ma la statistica è probabilmente approssimata per difetto. Finalmente liberi, stima siano almeno il doppio e che alimentino un mercato da 1-2 miliardi di euro all'anno. Ora la Onlus denuncia che questo colossale giro d'affari è governato per una quota rilevante da giudici non propriamente disinteressati. Ed è evidente che non tutte le strutture dell'affido minorile hanno caratteristiche speculative. Nella grande maggioranza svolgono anzi un ruolo positivo, di reale protezione dei minori finiti in situazioni difficili. Criminalizzare la categoria sarebbe quindi sbagliato e profondamente ingiusto. Resta il fatto che tra i giudici onorari i casi di conflitto di interessi sono davvero troppi e gettano ombre sull'intero settore. Del resto, l'esistenza di un rischio incompatibilità è ben dimostrata dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, che per scongiurarlo ha emanato più di una circolare. Il CSM ha stabilito non possa diventare giudice onorario minorile il titolare di ogni tipo di carica elettiva e se si è giudici non ci si può candidare, nemmeno alle elezioni amministrative. Ma il divieto riguarda soprattutto chi amministra o lavora, a qualunque titolo, nei centri d'affido o in strutture dove l'autorità giudiziaria inserisce i minori e per i funzionari dei servizi sociali comunali, a meno che non ne sia assicurata la posizione di terzietà. Le regole del CSM, insomma, sono chiare, però restano inapplicate. Gli stessi tribunali dei minori, che dovrebbero controllare il curriculum degli aspiranti giudici onorari, troppo spesso non lo fanno e il Ministero della Giustizia sembra indifferente al problema. Ora, finalmente liberi, denuncia casi concreti, fa nomi e cognomi. Nel Tribunale Minorile di Roma, per esempio, l'organizzazione ha individuato 15 giudici onorari in qualche modo collegati a centri di affido della provincia. Panorama ha posto il problema a Melita Cavallo, presidente di quel tribunale. A me non risulta, ha risposto il magistrato, dicendosi però disponibile a verificare i casi segnalati. A Milano i giudici onorari incompatibili sarebbero 16, ai quali, sostiene finalmente liberi, si aggiungerebbe perfino un magistrato di carriera, il quale siede anche nel comitato scientifico di una cooperativa milanese che fa assistenza ai minori. Adesso l'organizzazione farà in modo di segnalare ufficialmente i 211 casi che ha individuato a tutti i tribunali interessati. Aspetterà le risposte, poi trasmetterà il suo dossier al CSM. A quel punto si vedrà se il Consiglio vorrà intervenire e se il Ministero della Giustizia porrà fine allo scandalo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Maurizio Tortorella «Se il giudice è di casa». Da Panorama del 14 ottobre. Se sei un imprenditore, comprare dei cadeau per i clienti più fedeli può diventare un modo per pagare altre tasse. Racconta Stefano Rosso, un negoziante milanese. Devo acquistare un po' di chiavette USB da regalare come gadget pubblicitario ai clienti. Il fornitore mi manda l'offerta e mi ci include 80 centesimi di euro al pezzo di contributo SIAE. Di cosa si tratta? Siccome io potrei caricare sulla chiavetta della musica protetta dal diritto d'autore, la SIAE si porta avanti e fa una tassazione alla fonte. Ma io voglio solo regalare delle chiavette vuote o al massimo con una qualche presentazione della mia azienda, sicuramente senza musica protetta. Perché devo pagare una tassa a prescindere, solo per l'ipotesi che forse potrei caricare musica protetta? Le chiavette stavolta le ho comprate, ma al prossimo giro rimedierò delle vecchie audiocassette con la mia voce. E tanti auguri alla SIAE. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Paolo Casicci, Pagare la musica a prescindere, che la si carichi o no, dal venerdì di Repubblica del 9 ottobre.